vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 3 ottobre, il sole in regione sotto le 7.08 e tramonterà alle 18.44. Mercoledì c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Lillo Montalto Monella. Non solo la figura, ma anche il ruolo del sommelier sta cambiando in questi anni. Piace molto alle donne e si può dire stia assumendo i caratteri del consulente e motivatore enologico. Ne parliamo nel servizio di apertura con il presidente regionale dell'Associazione Nazionale Sommelier, per passare poi alla storia di Vita nei Campi con Angelo Floramo, che ci parla delle case contadine e del sentor di fumo che le pervadeva. Racconti di ordinaria burocrazia nella rubrica delle normative, dove si tenta di fare il punto sulla nuova politica agricola comune 2023-2030. Per la frutticoltura è la volta del generoso ma difficile olivo, che richiede una serie di accorgimenti per vegetare e produrre al meglio, mentre nello spazio che dedichiamo alle api avremo una descrizione della loro complessa ma efficiente società. Parole giuste per parlare di alberi poi nella rubrica che dedichiamo alle piante, cui seguirà l'andamento dei mercati agricoli, le previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. La figura del sommelier non è solo quella che tutti ci dipingiamo, ovvero un signore vestito di scuro con una conchiglia appesa al collo, ma è una figura che sta cambiando e ha ben determinate prospettive, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e non solo quello. Cosa sta cambiando nella figura del sommelier? Lo chiediamo a Renzo Zorzi, che è il presidente regionale dell'AIS, ovvero l'Associazione Italiana Sommelier, una delle associazioni più grandi al mondo. È un'associazione nata nel 1965, quindi un po' di strada ne ha fatta. In tutti questi anni chiaramente il mondo della ristorazione è cambiato, quindi il sommelier non è più solo colui che serve e mesce il vino ai tavoli o nei banchi di mescita, ma è una figura molto più complessa, perché sempre di più, per esempio, le catene di commercio, piuttosto che insomma altre realtà, si interessano della figura del sommelier come consulente, e anche molte aziende vitivinicole si appoggiano ai sommelier per lo storytelling. In quanti siete in Italia e qui in regione? In Italia siamo 40.000, in regione siamo circa 1.200 soci. E avete ripreso in presenza, dopo gli anni del lockdown, i corsi? Sì, diciamo non abbiamo interrotto del tutto i corsi, perché abbiamo fatto delle attività, diciamo così, online, anche con grande soddisfazione. Però è un'altra cosa vedersi di persona. Quindi da poco abbiamo ripreso i corsi, proprio qui a Udine, con un interessante numero di partecipanti. Carta d'identità tipo dell'aspirante sommelier. È una cosa un po' nuova, ma che abbiamo visto nel corso degli anni muoversi in questo senso. Quindi riscontriamo oltre il 65-68% della presenza del gentil sesso, e anche, diciamo, la media di età è inferiore ai 35 anni. Perché si approcciano a questo mondo? Beh, per conoscere di più, siamo in un paese dove l'enogastronomia chiaramente fa parte del nostro DNA, e quindi ecco, l'approccio è quello di sapere di più, avere quindi un approccio un po' più tecnico, ma qualche volta anche per confrontare le proprie esperienze e quindi capire qual è il punto di vista dell'AIS. Come potrebbe ulteriormente cambiare la figura del sommelier nei prossimi anni? Sempre di più, direi, diventerà un messaggero del buon bere e del buon mangiare, quindi si andrà verso chiaramente una professione proprio, direi, molto spinta verso lo storytelling. Si diceva che è una persona che accompagna nel mondo del vino, anche quindi del quello che si dice ormai da tanto tempo, del bere responsabilmente. Assolutamente sì, questa è una delle prerogative sicuramente nostre. Chi fa i corsi AIS intanto non beve più come prima, cioè quindi si approccia con una, come dire, una coscienza sicuramente migliore e più responsabile. Sì. sapore e di fumo. Si intitola così la storia che ci racconta oggi Angelo Floramo per portarci nelle case contadine di una volta. L'esperienza di chi costruiva i borghi rurali, tramandatasi nelle generazioni, permetteva che questi piccoli scrigni rappresentassero un'efficiente e sicura riserva alimentare, che nei ricordi degli ultimi testimoni di quella civiltà contadina friulana evocano ancora il sapore della fame, condito con quelle penombre profumate che aleggiano nei meandri dell'immaginario popolare. La chiave del camarin veniva tradizionalmente custodita dalla donna più anziana della famiglia, le parone, appesa alla cintura che ne chiudeva le vesti, infilata nella toppa con estenuante parsimonia, solamente in caso di conclamata necessità. Ma la mistura di sale, pepe e altri sapori, destinata alla conservazione delle carni, poteva essere troppo costosa per l'economia domestica. Le terre ricche soggette alla magnifica comunità di San Daniele potevano vantare la presenza di un libero mercato che assicurava una circolazione del denaro molto elevata, tale da garantire l'acquisto del sale nelle fruttifere miniere del Salzkammergut. Questo spiega la produzione di prosciutti, dono adatto alle tavole dei principi, come testimoniano le copiose carte conservate nell'archivio storico della città. Ma il caso del prosciutto di San Daniele è unico, a dir poco. Gli altri, dotati di mezzi più poveri, si dovevano ingegnare in modo diverso, per esempio ricorrendo alla fumicatura, quale pratica ancestrale, come dimostra l'altra straordinaria eccellenza friulana, ovvero il prosciutto di Sauris Zare, le cui carni vengono ingentilite dalla combustione del legno di faggio, respirando assieme venti balsamici che attraversano la meravigliosa foresta che circonda il villaggio alpino, in cui ancora oggi si parla una variante meridionale dell'alto tedesco. Le cucine nere, così venivano chiamate perché le pareti erano completamente rivestite da uno spesso strato di fuliggine, erano stanze della casa contadina tradizionalmente adibite a questa operazione delicatissima, che andava eseguita utilizzando solamente certi legni e non altri, capaci di conferire un sapore gradevole e intenso al prodotto, dato da quelle note di bosco e di resina che ancora oggi permangono in numerosi presidi di questa sapienza antichissima, tramandata di generazione in generazione. Sebbene tutti ne parlino, della nuova PAC 2023-2027 si sa ancora molto poco. A Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, chiediamo a che punto siamo con le definizioni delle nuove regole. Sì, in effetti tanto a Bruxelles quanto al Ministero delle Politiche Agricole sono settimane di grande fermento, in quanto entro la fine dell'anno è necessario chiudere tutta una serie di testi legislativi fondamentali per far decollare la nuova programmazione, tanto per i pagamenti diretti della PAC quanto per il programma di sviluppo rurale che, come già ricordato in altre occasioni, dovranno dare risposte concrete agli obiettivi fissati dalla strategia Farm to Fork, traduzione letterale dall'azienda agricola alla forchetta, fortemente orientate alla sostenibilità ambientale. A che punto sono i lavori? I regolamenti comunitari sembra che siano a buon punto e comunque, in base agli accordi politici raggiunti, sappiamo già quali saranno i contenuti fondamentali, ma questo non ci aiuta granché a capire come sarà la PAC dal 1 gennaio 2023. Molto infatti dipenderà dalle scelte nazionali che sono ancora in gran parte da fare. Eppure qualche orientamento ci sarà pure. Allora, in teoria, rispetto al passato, il nuovo modello organizzativo prevede meno forma e più sostanza e sposta l'attenzione dalle regole agli obiettivi. In altre parole, Bruxelles concederà maggiore libertà agli Stati membri nel definire gli strumenti, a condizione che dimostrino di aver raggiunto determinati risultati e che questi risultati siano in qualche modo misurabili con criteri oggettivi. Facile a dirsi, molto meno a farsi, specie quando si ha a che fare con l'apparato amministrativo italiano, e l'impressione che, vista la difficoltà di misurare certi risultati, la pubblica amministrazione trasferirà a terze parti la responsabilità della verifica. Per esempio? Già oggi alcuni aiuti economici sono legati a certificazioni emesse da parte di enti o società private. Pensiamo per esempio alle misure 10 e 11 del PSR, per l'agricoltura biologica o la produzione integrata. È possibile che in futuro altri pagamenti saranno subordinati all'ottenimento di specifiche certificazioni. Forse non è un caso che proprio di recente il Ministero ha approvato nuovi standard per la produzione sostenibile in viticoltura o in ortofrutticoltura, che considerano per ogni processo produttivo anche il consumo di acqua, le emissioni di gas serra e la sostenibilità sociale. C'è poi allo studio un sistema di certificazione anche sul benessere animale. Tutto molto interessante, ma sicuramente anche costoso e con un carico burocratico affatto trascurabile. L'olivo, con fortune alterne, cresce anche in regione, ma per avere dei buoni risultati bisogna conoscere alcune caratteristiche delle piante che qui si possono coltivare. Ce le illustra il professor Raffaele Testolino. Introdotta nel nord Italia dai Romani per la produzione di olio per illuminazione, la coltura dell'olivo è rimasta per tutto il Medioevo e nei secoli successivi, perdendo di importanza quando l'olio non è più servito come fonte di illuminazione, e riprendendola solamente nel secolo scorso, quando l'uso dell'olio ha cominciato ad affiancare burro e strutto anche nelle cucine del nord. Coltivato dall'Istria al Coglio e lungo la pedemontana fino a Pordenonese, ha rischiato di sparire con le tre drammatiche gelate del 29, del 56 e dell'85 del secolo scorso. Gli oli prodotti in aree più fredde rispetto all'areale tipico dell'olivo hanno grandi pregi, e questo ha messo le ali alla coltura in regione negli ultimi decenni. Attualmente sono coltivati ad olivo oltre 600 ettari. Si coltivano alcune varietà autoctone come Bianchera, Buga, Carbona, Drobnica, Gorgazzo, Rocca Bernardo, accanto ad alcune varietà della zona del Garda come il Grignan e alcune varietà nazionali come Leccino, Maurino e Pendolino, usate soprattutto come impollinatori. Si pianta in zone riparate dai venti freddi. Se il vostro terreno non ha questa caratteristica, non rischiate la fortuna, andreste incontro a cocenti delusioni. Per quanto riguarda le varietà, se volete fare olio e per di più buono, mettete pure qualche pianta di Bianchera o di Gorgazzo per onor di patria, ma piantate soprattutto Grignan, Leccino e la spagnola Arbechina. Farete buona produzione e buon olio. Se poi i puristi che vorrebbero in regione solo varietà autoctone vi rimproverano, fate spallucce e conquistateli con una bruschetta di olio prodotto da voi e un buon bicchiere di vino, questo sì autoctono. Prima di fare danni al vostro oliveto, frequentate con umiltà qualche corso di potatura, fate i trattamenti contro la mosca e altri insetti e malattie, e poi godetevi il vostro olio. Dimenticavo, portate a molire le olive entro qualche ora dalla raccolta, non più tardi, altrimenti sono guai. Buona fortuna. Oggi Moreno Greati, per la rubrica delle api, ci parla della loro complessa ma efficiente organizzazione sociale. Le api mellifiche sono insetti sociali che vivono in colonie o famiglie costituite da alcune decine di migliaia di individui, si può andare da 10.000 fino a 100.000. Le api non sono sempre state sociali, ma la socializzazione è andata via via ad aumentare con il procedere dell'evoluzione. Nella famiglia degli apidi il massimo sviluppo sociale si raggiunge proprio con l'apis mellifera, dove sono presenti caste ben differenziate, i maschi, i fuchi, operaie e regine. La colonia delle api vive sui favi di cera, costruiti entro cavità, ad esempio tronchi cavi, o in contenitori forniti dall'uomo, le arnie. Sui favi di cera esse allevano la covata e ripongono le scorte alimentari, il miele e il polline. I favi sono costituiti da una doppia serie di celle orizzontali, a stretto contatto tra loro, aventi il fondo comune e leggermente inclinate verso il basso. Oltre a queste celle orizzontali, occasionalmente si rinvengono sul favo delle celle verticali, a forma di ghianda, aperte verso il basso. Queste sono le celle reali. La popolazione di una colonia di api è formata da tre individui o caste facilmente distinguibili tra loro. Una sola femmina feconda, la regina, molte migliaia di femmine sterili, le operaie, poche centinaia di maschi o fuchi, presenti solo in primavera e estate. Fra le due caste di femmine, regina, operaie, non vi è alcuna differenza dal punto di vista genetico. Infatti, da un uovo fecondato può svilupparsi indifferentemente un'operaia o una regina. Le differenze sono solo dovute alla diversa dieta a cui vengono sottoposte le larve durante lo sviluppo. Le larve destinate a diventare regina vengono alimentate durante tutto il loro sviluppo con una dieta a base di pappa reale, mentre quelle delle operaie solo per i primi 3 giorni di vita, in seguito con un impasto di miele e polline. I maschi nascono da uova non fecondate e non si sviluppano in cellule uguali a quella delle operaie, ma di diametro maggiore, seppure la forma e la disposizione sono simili. Tale differenza di diametro delle celle implica che quando una regina depone un uovo, questa venga fecondata o meno in relazione al fatto che sia deposto in una cella piccola, operaia, o in una cella più grande, da maschio. Infatti, il diametro della cella instaura nella regina un rinflesso che consente il passaggio di spermatozoi dalla spermateca, che è il serbatoio di spermatozoi, all'uovo, che verrà deposto in celle piccole, mentre nel caso delle celle più grandi la valvola della spermateca resterà chiusa e l'uovo deposto non verrà fecondato e darà origine a un maschio. Per la rubrica degli alberi, oggi parliamo di nuovo con l'architetto Roberto Barocchi del libro che ha un capitoletto intitolato Parliamone bene. Perché si parla male degli alberi? Ma nel senso che si usano delle parole inappropriate. Si sono molto diffuse piantumare invece di piantare, o mettere dimora e piantumazione invece di piantagione, piantata o alberata. Tanti anni fa, chiese il compianto professor Giovanni Nencioni, fiorentino, allora presidente dell'Accademia della Crusca, cosa pensasse del verbo piantumare. Mi rispose, io non l'ho mai sentito, mi sa di piantume, cioè di mustri. Infatti per piantume si devono intendere piante malformate. Chi vorrebbe mettere dimora piante brutte? Un altro termine errato è essenze. Si sente dire piantumare le essenze, invece di piantare le specie. Il termine essenze può servire a indicare i tipi di legni come materiali da costruzione, non di alberi. Ma perché allora si sono diffuse queste parole? La parola che riempie più la bocca, apparendo falsamente più importante, scaccia quelle più semplici. Ad esempio, non si fa nulla, tutto si effettua. Secondo il parlare comune, noi non stiamo facendo questa trasmissione, la stiamo effettuando. Un esempio di questo andazzo è l'uso degli anglicismi, perché sembrano più importanti. Spending review invece di revisione della spesa, lockdown invece di confinamento, il falso inglese smart working per telelavoro. È vero che ogni lingua contiene molte parole straniere, ma questo è giustificato se non esistono corrispondenti parole italiane. Ad esempio, divano è un corretto calco omonimico del persiano divan. Grattacielo è un calco eteronimico dell'americano skyscraper. Ma perché dire mouse invece di topo, che gli inglesi, francesi, spagnoli, eccetera, dicono topo nelle loro lingue? Altre parole sugli alberi? Ma il libro contiene un grossereto di 50 parole da usando quando parliamo di alberi, ma non occorre impararle tutte. E con Amos D'Antoni vediamo ora l'andamento dei mercati agricoli. Mercato attivo con prezzi in salita venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole delle Camere di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 25,80 e 26 euro il quintale IVA esclusa, l'orzo, peso specifico 62,65, tra 22,60 e 23 euro, il frumento tra 25 e 25,50 e la soia nuovo raccolto tra 54,50 e 55 euro il quintale. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 9,50 euro e il frumento di 7,50 al quintale. Discrete negoziazioni all'ortofrutticolo di Udine con prezzi stabili. L'insalata Gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate tra 1,10 e 1,20 euro il chilo IVA esclusa, le zucchine tra 1 e 2 euro, le melanzane tonde tra 0,90 e 1 euro, i cetrioli tra 1,20 e 1,50, i pomodori in grappolo tra 1,50 e 1,70, i peperoni gialli e rossi italiani tra 1,30 e 2 euro, le fragole extra trentine da 5,50 a 6 euro, le arance straniere da 1,20 a 1,50, le nettarine da 1,30 a 1,70, le pesche da 1,50 e l'uva da 1,30 a 1,80. Nel settore della pesca l'attività è ripresa abbondante con prezzi diversificati. Alla cooperativa pescatori San Vito di Merano Lagunare i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono quotati da 27 a 35 euro al chilo IVA esclusa. Le sogliole da 9 a 27, le ombrine da 12 a 32, le canocce da 3 a 10, le orate da 6 a 22, le passere da 13 a 16, i cefali da 2 a 8, i palombi da 5 a 8, le cappesante da 15 a 17, i calamari e calamaretti da 18 a 25, le seppie a 13 euro il chilo. Miglioramento invece per il prezzo del latte crudo di vacca francostalla di origine del Friuli Venezia Giulia, dove la commissione camerale da Pordenone a Udine lo ha quotato tra 37,50 a 38,50 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine, nel settore degli aviconicoli si segnalano scambi attivi con prezzi favorevoli. I polli a terra vengono pagati tra 1,14 e 1,16 euro il chilo IVA esclusa, le anatre tra 2,56 e 2,60, le faraone tra 2,54 e 2,64, i tacchini maschi tra 1,43 e 1,45, i conigli oltre 2,5 kg tra 2,06 e 2,12, le uova da allevamenti a terra oltre i 73 grammi a 16,20 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Osmer Marcellino Salvador diamo uno sguardo al tempo che farà nella settimana entrante. Settembre si è appena chiuso ed ha avuto caratteristiche prevalentemente estive, con tanto sole e temperature oltre la media, piovosità invece in genere ben sotto la norma. Ottobre è iniziato col sole, ma ora siamo ad una svolta che darà di fatto inizio alla stagione autunnale. Già oggi affluiscono correnti umide dall'Adriatico, ma sarà in particolare tra martedì e mercoledì che vi sarà un peggioramento più diffuso e marcato. Infatti, dopo una giornata di lunedì ancora interlocutoria con variabilità e qualche pioggia, martedì arriverà un fronte occidentale con correnti da sud sostenute e umide che porteranno piogge abbondanti e temporali. Sui monti le piogge potranno essere intense, mentre sulla costa pioverà meno, ma soffierà scirocco con possibili mareggiate. Mercoledì arriverà un altro fronte dall'Atlantico che determinerà ulteriori piogge abbondanti e temporali sulla regione. Le temperature massime mercoledì saranno sui 20 gradi. Lo zero termico scenderà dagli attuali 4.000 metri ai 2.500. In seguito, sull'Italia si formerà una depressione che manterrà tempo incerto per qualche giorno. Vi invitiamo a seguire pertanto gli aggiornamenti che l'ARPA emette quotidianamente, ora anche con la ripresa di Buongiorno Regione in TV al mattino e come al solito alla Radio RAI e sul sito internet. Termina qui la puntata. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano passaggio di picchio c'è splò e domani, ovvero c'è passaggio di beccacce, l'indomani piove. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Lillo Montalto Monella e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.